Ok, un sogno. Cominciamo, dai. È un sogno. È un sogno. Va bene, allora dai, la puntata numero 2.2. Madonna. Andiamo subito con le news. Che ma siamo live. Siamo in live da 5 minuti, veramente, poi taglierò. Ah, no, va bene, va bene. Sì, salve sì, a tutti! Sì, all'improvviso, proprio. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Siamo tornati, siamo ancora vivi, ciao, ciao. Io sono, come si chiama? Andrì. Gregorio... Sì, Giordano Bruno. Giordano Bruno, no. Passiamo, ma andiamo subito alle notizie, Va bene, va bene, dai. Veloce, veloce, ne ho un paio gustose, una proprio di oggi, credo, e hanno rilasciato una specie di poster del prossimo film di Cronenberg, che si intitola Maps to the Stars, ed è una storia che a te dovrebbe piacere, perché parla della Hollywood, quella scandalosa, quella dei segreti, delle porcate, non è... ambientato nel passato, ma... Comunque, è legato al cinema degli anni 60, c'è un cast bello ricco, c'è Robert Pattinson di nuovo, purtroppo John Cusack, Julian Moore, Mia Wasikowska, graditissima, Olivia Williams, insomma una storia di scandali Hollywood, c'è questa famiglia che ruota intorno a questo bambino, insomma un giovane attore, giovane stella promessa, che è interpretato da Ivan Byrd, non mi ricordo chi è. E il padre Cusack, che fa il terapista delle star, e una delle sue pazienti è Julianne Moore, che insomma qualche trauma represso, è una roba interessante, parla proprio del ventre molle di Hollywood, sembra bello, bello, vabbè, poi è Cronenberg, io ci casco, la locandina, vabbè, poi la vedrete, c'è la scritta Hollywood, le palme e delle fiamme che avvolgono la collina, quindi... Si preannuncia una roba succulenta, pare sia quasi una ghost story, però non credo sia un horror convenzionale, conoscendo Cronenberg. E questa era una, molto interessante. Aspetta. Poi, no, questa volta ci casco anch'io, non sono appassionato come te di Cronenberg, però dalle premesse è il film fatto per me, quindi non vedo l'ora, volevo dire questo. Sì, non so, non è ben chiaro se, cioè, in che periodo è ambientata, però sembra succoso. Ah, ma il cast è confermato? Perché Sì, ogni giorno questo qua è sembra ufficiale. che ogni Perché giorno hanno... ne arriva uno nuovo, se ne toglie uno, è strano. Ma Pattinson l'avevano detto da subito, quindi Sì, lui sì. probabilmente era certo. Gli altri, non lo so, sembrano confermati anche perché parlano proprio di trama, c'è anche le musiche sono di Howard Shore, è confermato. Poi non ho capito, dalla brochure di Cannes sono queste informazioni, quindi è presentato a Cannes, non capisco, Vedremo. Ma io ho anche sentito la Cotillard, era una voce o... E qui in questa news recente non risulta, però va a sapere. È già bello, bello ricco come cast, per cui Sì. vedremo. Poi l'altra è una cosa proprio veloce, si sa già, l'avevo forse scritto su Facebook, c'è, insomma, oddio, Anderson è a lavoro già sul prossimo film, che è basato su un romanzo di Pynchon, e si era già parlato nei giorni scorsi di una possibile partecipazione di Benicio del Toro, e a quanto pare si aggiungerà forse anche Owen Wilson. Il titolo è Inherent Vice, anche qua dovrebbe piacerti, a parte per il regista. Los Angeles anni 60, anzi 69, e è un investigatore che, insomma, un noir tipico, un investigatore che indaga su poliziotti corrotti, ex fiamme, potrebbe essere interessante anche questo. Poi, oh, Anderson, pure se è una chiavica alla trama, sarà uno spettacolo. Esatto. E hai finito già? Sì, è solo l'aggiunta del cast, perché sai, è una cosa che sta venendo fuori man mano, attori che vengono proposti, quindi non c'è nulla di definitivo ancora. Anche Phoenix, che avevano detto sicuramente sarà il protagonista, no, invece non è confermato, non si sa, potrebbe non essere lui. Ah, vabbè. Quindi è tutto un po'... No. E niente. No, è che ho appena letto una notizia che fanno il remake del Vendicatore Tossico e ci sarà Schwarzenegger. Infatti era una di quelle, sì. Non si è capito se è una cosa ufficiale, se c'è dietro Kaufman, la troma, comunque sì. Schwarzenegger sì. Farà l'allenatore di Toxi nel prossimo Toxic Avenger, vabbè. E questa era un'altra. Sì. E poi c'è una che abbiamo anche già discusso noi, ma l'ho messo su Facebook. Sembra che Joe Dante, insieme a Simon Pegg, che sarà probabilmente protagonista, sia al lavoro su, qualcuno aveva detto il remake del film di Turner, Night of the Demon. In realtà sì, cioè, non è proprio un remake, è un altro adattamento del racconto a cui si ispirava anche Turner, che si intitola Casting the Runes. E comunque una versione attuale, cioè portata ai giorni nostri, e Simon Pegg sarà il protagonista, mentre io invece pensavo il contrario, sarebbe stato la Nemesi, perché ha il viso identico all'attore che interpretava Carswell, il cattivo dell'originale, invece no, sarà il protagonista. Un remake, un altro remake, però c'è detto Joe Dante, chissà. Non confondetevi con Joe D'Amato, eh. Io lo faccio sempre, non so perché. No, sì, uno poi arriva in sala e si trova delle sorprese strane. E questo si va ad aggiungere a un altro remake, quello dei Gremlins, un altro proprio. A proposito di Joe Dante. Necessario. Infatti, appunto. Inquietante. Va bene, allora Salem. Salem, chi vado? Vado io, sì. Tanto ne parliamo più che altro, visto che la recensione c'era già da mesi e la puntata del podcast anche. Sì, ma io pensavo che volevi fare una specie di riassunto del post. Sì, esatto, sì, infatti, sì, piuttosto che ripetere la trama, ripetere la recensione, sì, non so più che altro come impostarla. Polemica. Vabbè, insomma. Sì, sì, diciamo che ci interessava soprattutto la discussione, la polemica di molti spettatori. Insomma, è un film che ha diviso, se è una frase fatta, si dice sempre, ma mai si addice di più a un film, come in questo caso. È un film che è stato odiato, è stato amato, poi sì, qualche reazione in mezzo c'è, per fortuna si riesce anche a non sbilanciarsi troppo. Però è un film che ha disgustato un sacco, ma soprattutto gli appassionati di horror, anche chi magari è un po' più aperto a un cinema d'autore, un po' più visionario, no, hanno tutti detto che Zombie vuole fare l'autore ma non è in grado, vuole fare il Kubrick, il Ken Russell, ma non è in grado, anche se poi lui in realtà ha solo fatto un paragone in un'intervista, non ha detto sono il nuovo Kubrick, sono il nuovo Russell, ha detto mi sono ispirato a questi registi. E questo è quello che questo è il risultato. Poi è un film che probabilmente si è divertito lui a fare, ho letto anche questo da qualche parte, finché io avrei voluto vedere e l'ho fatto. E quindi va anche giudicato di conseguenza. Però ecco, sì, c'è stata proprio una reazione rabbiosa, viscerale, cioè la gente che si sentiva infastidita da questo film che va a copiare addirittura, sì, una delle critiche principali era questa. Che non omaggia, ma copia da Ken Russell, appunto, da Kubrick, insomma, da una serie di registi che hanno già affrontato l'argomento satanismo, streghe, quando poi in realtà l'omaggio, appunto, è dichiarato e, insomma, abbastanza ironico anche. Poi c'è una scena che molti sembrano non aver visto. A inizio film c'è questo metallaro in radio che parla di Satana, di Caproni, e lo fa in modo quasi grottesco, caricaturale, infatti i protagonisti ridono, e io credo che quella scena poi sia da vedere anche come una chiave di lettura, insomma, sì, stiamo parlando di Satana, di streghe, ma non prendiamoci troppo sul serio, anche dal punto di vista autoriale, cinematografico, è un film visionario, ma anche molto ironico, cioè l'iconografia è prevedibile, è banale, diciamo, perché va a prendere in giro diciamo le basi di Rob Zombie, i video musicali che lui ha realizzato, che vedeva da giovane, i vecchi film della Hammer, di Ken Russell, di nuovo, di Kubrick, non lo so, invece no, ha copiato e male, è un film che fa schifo, è noioso, è scopiazzato, non vuol dire un cazzo, insomma le solite critiche che vengono fuori quando uno fa una cosa un po' meno banale, soprattutto in campo horror. Vabbè, io la mia l'ho già detta, quindi non sto a ripetere quanto sia bello, quanto mi sia piaciuto, quanto sia di rottura, però non capisco neanche la reazione opposta, cioè non... anche in sala questi ragazzini che ovviamente vanno, si fiondano perché c'è l'horror, ci sono le streghe, figurati. Però sì, si annoiano, se lo sparano tutto, ti rovinano la visione, scalciano contro il sedile, si danno le gomitate, ridono perché ci sono le donne nude, perché insomma, se poi questo è lo standard, e non è solo lo standard dei ragazzini, purtroppo, che ho letto cose anche scritte da ventenni, trentenni, quarantenni, che sembra che abbiano ammazzato la madre, reazioni viscerali. E non, davvero non capisco come mai un film del genere, poi qualcuno giustamente dice, ah vabbè, ma se lo fa zombie l'omaggio è scopiazzatura, se lo fa Tarantino no, o vabbè i paragoni così lasciano un po' il tempo che trovano, però è vero, cioè quando è citazione, quando è copia, cioè, chi lo decide, chi decide cos'è autore, chi decide cos'è cinema? Cinema è qualsiasi cosa, la fa l'autore lo fa, sì, il pubblico anche, ma è una scelta stilistica, un modo di fare cinema, a me sembra che lui abbia una sua poetica, un suo modo di confrontarsi col mezzo, è anche uno che è cresciuto molto come autore, come regista, poi piaccia o non piaccia, ha fatto un filmone tecnicamente, però nessuno lo vede, tutti vedono il caprone, ah, ancora il caprone, come se poi Zombie non si accorgesse di usare un'iconografia vecchia, anche il finale, senza spoilerare, ci sono delle immagini deformate in modo molto spartano e la gente dice Madonna, questa è roba da YouTube, e certo che quello è un deficiente che lo fa e dice ah, sicuramente non si accorgeranno che sono un imbecille, no, almeno sforzarsi di capire cosa quello voleva fare, cosa no, invece no, è merda e non si torna indietro. Vabbè, io speravo che smuovesse le acque questo film, che facesse un po' rinsavire i fan dell'horror, invece boh, abbiamo fatto un passo indietro. Vabbè, ma sì. Gli insulti, le risate in sala e insomma le reazioni di odio viscerale sono la riprova che è un film d'autore. è la reazione che c'è sempre quando un regista fa un film diverso dal suo solito, fa proprio un film d'autore. E quindi sì, è la riprova. Complimenti, avete decretato Zombie autore, bravi. No, io dovrei rivederlo perché mi è stata rovinata completamente la visione. Come hai detto tu, c'erano i ragazzini dietro, che poi i ragazzini avevano quanto? 25 anni? Erano comunque... Non li ho neanche visti in faccia, comunque sì, ragazzini come atteggiamento, poi magari. Sì, sì, no, comunque erano. Non erano piccoli, anche perché forse no, non era vietato ai minori di 14, quindi vabbè. Sì, poi hanno abbassato il rating. Suscitando l'ira dei preti, però è un altro discorso. È vero, sì, possiamo parlare anche di quello. Sono riusciti a bloccare anche Game of Thrones, quindi... Sì, ormai siamo tornati al Moige. Comunque chi era? Il vescovo di Brescia? Chi se ne frega, comunque. Ha fatto la porcata, più porcata. No, ma più che altro non se l'è presa col film, ma con lo Stato che non lo ha vietato ai minori di 18 anni. Per cui ho detto, vabbè, il film è quello, il dovere... dello Stato era però proibirlo addirittura. Sì, comunque la solita discussione su un film che non hanno visto e non vedranno mai, vabbè. E dovrei rivederlo, appena ho un po' di tempo me lo risparo, visto che si trova già, e anzi in Inghilterra c'è già il DVD, ma forse l'avevamo già detto ai tempi. Perché io ci ho messo tutto me stesso, però se il clima attorno è della risata o è da vacanza, non riesci a immedesimarti in un horror simile, che è tutto atmosfera o cosa. Niente, una visione davvero rovinata. Non riesco a dire, cioè mi è piaciuto, ma non abbastanza da farmi un'opinione completa e a dare un giudizio definitivo. Mi serve un'altra visione totalmente da solo. Anche se, visto che tu parlavi di quella parte finale del montaggio di YouTube, la frase montaggio da YouTube l'ha detta un deficiente, quindi inutile tirarla fuori, anzi dargli peso. Comunque, io non ho notato che sia così grezza, anzi, è una parte che nonostante le risate, perché lì era il picco, si vede anche quell'esserino, cos'era il diavolo? No, non era il diavolo. Sì, forse il diavolo. Vabbè, che bello quello, anche che se lo abbia rappresentato così, invece di una cosa maestosa, una cosa così brutta e inutile, davvero. Anche questo non colgono, no? Tu vai lì, appunto, senti le risate e non riesci neanche a metterti con la giusta sintonia, insomma. Infatti, e poi quando è uscito quell'esserino lì, chiamiamolo così anche per non spoilerare, ma chi se ne... lì è stato l'apice delle risate, quindi boom, parte finale su cui punta molto il film è completamente rovinata. Eppure, nonostante questo, mi sono sentito molto a disagio con quel montaggio, con quelle immagini, i suoni, ha fatto un lavoro meraviglioso lì. È talmente fatto bene quel pezzo che poteva anche esserci a fianco Bombolo che faceva le battute e mi sarei cagato sotto lo stesso, perché è impressionante. Per il resto ne riparliamo. Sì, è buono che se ne parli tanto, ma anche male, perché poi le opere, vabbè, non voglio fare il gioco di quelli che dicono, però le opere controverse, le opere diverse che provano a fare qualcosa di provocatorio in tutti i sensi, fanno parlare, fanno incazzare, e qui è, insomma, stanno facendo il gioco del film. Se dicono che non è un autore, come dicevi tu, lo stanno legittimando come tale, invece, perché il cinema d'autore non accontenta mai tutti, fa incazzare quelli che non capiscono, che non... invece no, è un... insomma, andava, sì, è un peccato, è bello che sia arrivato al cinema, ma allo stesso tempo è un male, perché appunto rovina la visione a quei pochi che magari erano nel giusto mood per vederlo. Io mi ricordo, per fare un paragone, quando l'ho visto, e per fortuna l'avevo già visto al Festival di Torino, e sì, vabbè, dici tu, è un festival, chiaramente c'è un atteggiamento diverso del pubblico, però era davvero diverso, me lo sono goduto, ma col sorriso sulle labbra, perché c'era silenzio, c'era consapevolezza, c'era anche la volontà di farsi prendere a questo film. Poi magari non è piaciuto, anche se l'applauso c'è stato, però sono stati zitti, sono usciti dalla sala e le cose le hanno dette dopo, civilmente, come fanno tutte le persone. Invece no, la pernacchia, l'urlo, cioè, davvero un peccato. Uno preferisce quasi, appunto, vedere i film a casa, fregarsene se arrivino o no al cinema, poi magari l'autore ci perde perché non incassa, non vende, non è vendibile. Sì, davvero la rovina del cinema questa gente. Meno male che almeno non è uscito quando era a 3 euro, sennò lì sarebbe stato addirittura peggio, tutti sarebbero riversati, le fogne sarebbero arrivate. Comunque era bella piena la sala, Di Salem? Sì. Beh, sì, però pensa il pubblico, pensa a quelle 3 ragazzine della casa, Salem. Sì, poi ne riparliamo. Sì, infatti. Lo lasciamo per il finalone, l'altro horror di puntata. Sì, in apertura e in chiusura, e poi sempre legati al pubblico. Gli horror in sala sono rovinati, dovrebbero fare la saletta a parte, da 3-4 posti. Vabbè. O le cuffie, sì. Cosa del genere. Sì, i paraocchi come i cavalli e le cuffie. E comunque... sì. Ma loro ce li hanno già i paraocchi, questo è un altro discorso. Non abbiamo parlato della news del giorno. Cioè, qual è la news del giorno? Vabbè, non è morto nessuno, è strano, sono 2 puntate di fila. È morto Harry House, no? Era già morto la prima volta. Ah sì, è vero. No, ma dico proprio oggi, in questi ultimi 2 giorni non è morto nessuno, però se ne sono andate 2 figure molto importanti del cinema dell'ultimo periodo, soprattutto azione. Perché oggi Angelina Jolie si è sottoposta a una masterectomia doppia, quindi non ha più il seno. No, non so se avete capito bene, Angelina Jolie non ha più il seno, ok? Né uno né l'altro. Ma è... non se l'è fatto ridurre lei, cioè è una questione di malattia o... Sì, no, allora è una masterectomia preventiva, perché sua madre ce l'aveva, il cancro al seno, ed è morta per quello a 58 anni, e lei... I medici gli hanno detto, guarda, tu sei a rischio dell'87%, il che non vuol dire che devi per forza fare una masterectomia. Sì, un po' drastica. Basta fare dei controlli, anche più, anche a tempo breve, insomma, invece che uno all'anno ne fai 2 all'anno, 3 all'anno e lo tieni d'occhio. Invece no, lei si è proprio tagliata via tutto e è una notizia che ha scioccato molti. Beh sì, insomma, sì, è molto trash come momento. Però. Io apprezzo il coraggio, perché non dico che recitasse solo per via di quelle due lì, aveva anche altre doti, credo. Le labbra a canotto, può ridurre anche quelle, sì. Non lo so. Madonna, la cattiveria, sì. No, vabbè, dai, insomma, Changeling era brava e non si scopriva neanche, quindi... È vero, va bene. Poi vuole fare solo la regista adesso, quindi non ci tocca più questo argomento. Sì, però, insomma, apprezzo il gesto, anche se è vero, come hanno scritto alcuni medici, che se lei fa una cosa del genere da personaggio pubblico, e poi la gente magari va dal medico appena ha una possibilità di cancro e va subito a fare una masterectomia, che è una cosa radicale, non è un... c'è un intervento serio, quindi i medici stanno dicendo calma, è un cancro, si può gestire, non si può tagliare via tutto. Sì, in effetti, anche perché per una donna non è una cosa da poco, quindi sì, io non so, è un messaggio strano, io avrà le sue ragioni, mi chiedo, anche perché comunque si fa regolarmente anche quando la malattia è in corso, preventiva mi sembra una cosa, sì, uno spera sempre di poterlo arginare diversamente, vabbè. Boh. Perché lei non ha nulla, sta bene. Non è che è già in uno stadio iniziale del cancro, è proprio preventiva, vabbè. E comunque adotterà 4 bambini per, sì, per attenuare un po' la sofferenza. Mi sembra che lei abbia scritto una lettera in cui lo spiega e dice sia della madre sia per i suoi bambini l'ha fatto, perché non vuole che perdano la madre in giovane età. Vabbè, però... è radicale, cioè io ogni estate, ogni primavera ho le allergie, ma non mi taglio il naso preventivamente, cioè la curo la mia allergia. So che è un paragone stupido, però è come si comporta chiunque, sia che sia un cancro, che sia che un'allergia. Non so, hai mal di testa e ti tagli la testa, e questo è il ragionamento. Poi, vabbè, apprezzo il coraggio, perché... senza quello. In che epoca viviamo? Che i divi si mutilano e devono comunicarlo al pubblico, vabbè. Ma l'avrebbero notato questo, se non lo dicevo. Un po' di privacy, di contegno, la malattia, vabbè, ognuno l'affronta a modo suo, vabbè. Ci dispiace per le gemelle e per Angelina Jolie. Anche Brad Pitt, che poveraccio. E Brad Pitt, sì, è vero. E vabbè, questa quindi abbiamo fatta. E una è fatta. Tutte e due, fatte. No. Sì, passiamo velocemente a quei due film usciti dopo Salem, ma prima di questa settimana, proprio due parole, perché tanto è passato un po' e sono film che magari richiedono meno spazio. Molto. Vado subito io col cecchino, che tanto non merita altre parole, che è un film insignificante. Michele Placido torna alla macchina da presa, ma non scrive... e si fa scrivere la sceneggiatura da altri francesi, non ricordo più i nomi, e gira questo film con un po' di volti noti, Matteo Kassovitz, Daniele Auteuil, oddio come si chiama l'altro, Olivier Gourmet, e tira fuori questo polar che non ha nulla da dire, sembra tagliato con l'accetta e scritto da cani, e quindi probabilmente non l'ha visto nessuno, meglio così, non vi siete persi nulla. Basta. Esatto, non vale manco i 3 euro della festa del cinema. Però i 5 minuti iniziali belli, e basta. Sì, si vede che comunque Placido, almeno come regista, si muove dignitosamente, quindi non è colpa sua, però il nome ce l'ha messo. Vabbè. E l'altro invece era Effetti collaterali, l'ennesimo film solo in quest'anno di Soderbergh. E sì, è un thriller, cioè la definizione, il giudizio finale che gli darei è quello che do a tutti i film di Cronenberg, di Soderbergh dell'ultimo periodo. Sì, è bello, non è brutto, anzi, non è neanche insignificante, è solo che gli manca l'anima, gli manca, io ho parlato forse di Sacro Fuoco, sì, gli manca quello. Sono tutti fatti bene, hanno sempre comunque un buon cast. Tatum ormai c'è in qualsiasi cosa lui faccia, anche Jude Law no, però forse no, non so cosa abbia fatto d'altro, adesso non mi viene. Comunque il cast è buono, l'idea è buona, la regia è buona, ma è tutto buono, non c'è niente che vada oltre a un certo livello di qualità, quindi sì, è bellino, a qualcuno piacerà di più, a qualcuno piacerà di meno, però è insipido alla fine, come Rune Imara, ecco, questa la dico. Tiè. Madonna, sì, abbiamo perso 3 fan dei 10 rimasti, sì. Sì, comunque concordo, non so se hai finito. Sì, sì, sì. È un thriller, per carità, bello, eh. Mi è anche piaciuto, a parte se proprio devo trovare un vero e proprio difetto, con il solito spiegone finale, con annessi flashback, perché non basta, non era tutto ovvio, bisogna specificare, perché per il resto... Sì, bisogna scendere un po' a compromessi, è molto vecchio stile come thriller, quasi un giallo, ecco. Però è guardabile, sì, il problema appunto quando uno fa tanti film, soprattutto li fa da mestierante, perché Soderbergh è un autore quasi, ma no, non so neanche se definirlo tale, ma è uno che comunque ha un suo stile, una sua tecnica, una sua grande competenza tecnica, però se fai i film per farne 6 all'anno è... È un po' come Woody Allen, che aveva una sua poetica, è un autore che tutto sommato ha lasciato il segno, però è iperattivo. Poi magari fa dei film con una bella fotografia, fa inquadra bene la città, però deve fare un film all'anno e il risultato è quello che è. Però ce ne siamo liberati, perché a quanto pare Soderbergh ha detto che basta. Il prossimo film che arriva a Cannes, Behind the Candelabra, mi sembra che si chiamasse, sarà l'ultimo, così dice, In effetti non ce ne sono altri all'orizzonte, ed è strano visto che lui ne sforna così tanti, vedremo. Ma, ricollegandoci, da uno che si ritira a uno che esordisce. Vado? C'hai esordi, sì. Sì, ed è Rza. Si pronuncerà così? O RZA? O RZA? Non lo so, io mi ricordo in Coffee and Cigarette che Bill Murray lo chiamava Rezza. Ah già, sì, è vero, forse è proprio Rezza. Ma in italiano, non so se in inglese, boh, vabbè. Beh sì, però penso che sia quello, almeno è più pronunciabile, Rzan se può sentire. È Rezza, e come chi è Rezza? Ma come l'amico di Tarantino, quello che fa le colonne sonore, proprio di Jarmusch, ha fatto Ghost Dog, di Tarantino Kill Bill 1 e 2, è membro del Wu-Tang Clan, è attivista americano, è attivista di chi? Ma chi è? Tutti adesso sono attivisti. È nero. È nero, sì. È un grandissimo appassionato di cultura orientale e di cinema orientale, se si spara tutte queste robe de botte, de pugni, tutto in salsa orientale, in salsa di soia. E persino l'album di debutto del Wu-Tang Clan si chiamava qualcosa tipo 36 Chambers, dal titolo del 36 camere, lo Shaolin delle 36 camere, una roba del genere, quello mi manca. Comunque un cult degli Shaw Brothers. Un cult comunque del cinema di Hong Kong di quel periodo. E da grande amante di questo genere, di questa cultura, finalmente ha preso tutto il coraggio e si è lanciato e ha prodotto il suo primo film, sia da regista, da produttore, da attore, da sceneggiatore, ha fatto tutto in questo film, e ovviamente da compositore, visto che mi è musicista, ed è l'uomo... Devo leggere perché con i pugni di ferro, perché ho scritto dai pugni di ferro e nessuno se n'è anche accorto. Bravi, bravi. E l'uomo dei... Ecco, dai. L'uomo con i pugni di ferro. E allora, siamo nella Cina feudale. Il protagonista è questo Taddeus, che è appunto Rezza, massacrato dal pubblico. Non so, è peggio di un cane, poveraccio. Non è un attore. È tremendo, dai. Quegli occhi da cane bastonato, anche quando non serve, vabbè, poveraccio. Sì, però poveraccio. Taddeus è un fabbro di colore che è appena giunto, non è appena giunto, è giunto qualche anno prima in questo paesino della Cina che si chiama Jungle Village. È giunto in questo paese molto rocambolescamente dopo che nato in America e vissuto in America ha ottenuto la libertà, perché siamo ancora nel periodo dello schiavismo in America, ha ottenuto la libertà e è riuscito a fuggire ed appunto in qualche modo è arrivato in Cina. Vive in questo paesino dove è innamorato della bella Lady Silk, che è una prostituta che lavora all'interno della grande locanda, il grande locale al centro del paesino, gestito dalla bellissima Madame Blossom, che non è altri che Lucy Liu, che sta però un po' invecchiando anche lei. Insieme progettano di fuggire, di lasciare il paese, magari tornare proprio negli Stati Uniti, vivere liberi, quando i loro piani vengono inesorabilmente distrutti dall'arrivo di una cassa d'oro nel paesino, e dove ci sono i soldi e dove ci sono dei soldi facili e rubati, è ovvio che si crea confusione e casino. I ladri sono inseguiti dall'esercito, poi arrivano altri personaggi, insomma si crea un bel casino, e loro si trovano proprio al centro. Non vado oltre. Però insomma è la classica storia, appunto, del filone degli Shaw Brothers o del cinema orientale. La sceneggiatura non è importante, il film non è importante, cioè la storia non è importante, anzi è sempre la solita. Mi ha ricordato moltissimo lo Spadaccino Monco, come ho scritto nella recensione, perché gli vengono... posso dire? Sì, posso dire. No? Vabbè. Non è detto proprio dappertutto, questo. In alcune recensioni lo scrivono, però in realtà non succede proprio subito. Mi ha ricordato lo Spadaccino Monco, perché lo Spadaccino Monco, lo dice il titolo in quel caso, perde un braccio, ma è comunque un grandissimo combattente, perché riesce a ovviare a questa mancanza. E succede una cosa simile qua, ecco. Poi il titolo dice gran parte di quello che potrebbe succedere. E è un film che dovrebbe basarsi tutto, come negli altri storici degli Shaw Brothers, sull'azione, sui combattimenti, sulle scenografie, sulle coreografie. E in effetti lo fa, perché comunque Erza è Rezza. E si vede che è un appassionato, si vede che gli piace questo genere e tenta di omaggiarlo con un film, senza però riempirlo di citazioni, perché poi non so te, ma io non ne ho viste granché. Non sembra che debba per forza mettere l'omaggio di qui, la citazione di un film famoso di là. Sì, non diretto, chiaramente si vede l'influenza, perché è un omaggio chiaro e voluto a un certo cinema, ma sì, non c'è la scena inquadrata in primo piano, guardate. Diciamo che non è alla Tarantino, visto che è suo amico, non fa la citazione che tutti possono cogliere. Anzi, forse non ne fa, però lo stile lo riprende bene. E ecco, paragonando per un attimo a Zombie, questo film è stato massacrato tanto quanto Le Steghe di Salem, però quello è un bel film, questo non è che è un brutto film, però non si merita tutto questo odio. Davvero la gente lo sta distruggendo, è una schifezza, non merita neanche i 3 euro di questa festa del cinema. Non capisco, non è niente di che. Prima di tutto mantiene quello che promette il titolo, cioè una tamarrata con un po' di azione, un uomo con i pugni di ferro, un uomo dorato che non ha senso, comunque non viene spiegato, ma va bene, non è un problema, con le sembianze di Batista, il grande eroe di Intrinsico, perché lui gioca sempre ai giochi di wrestling, questo dobbiamo sottolineare. E insomma mantiene le promesse che spacciava nel trailer e nella locandina e nel titolo. È vero, non va oltre un tot, cioè non è un granché, non è Hero, per dire, non so, non è che le scene di azione siano memorabili. Anche qui si può dire che è un po' insipido, è un po' col freno a mano tirato, però d'altronde è un'opera prima, è di uno che non è un regista. È un altro musicista, anche in questo caso, pensate, è incredibile. Però in definitiva io lo apprezzo perché è un appassionato che ci ha provato, ha voluto fare il suo film, non è venuto benissimo, ma non è neanche brutto, ha rispecchiato ed è stato fedele al canovaccio dei film orientali di una volta, migliorerà, però insomma mi sembra ingiusto massacrarlo così, anche perché, ripeto, le scene d'azione saranno moscette ma sono buone, la sceneggiatura sarà insignificante ma deve esserlo, il resto non so, è un Russell Crowe così strano, per me vale solo quello il prezzo del biglietto, è abbastanza trash ma neanche troppo e neanche abbastanza, ecco. Però sta lì, va bene, è un 6, gli regalo il 6. Vai te. Ma, poi io non capisco, cioè questo film qui mi ha fatto pensare subito a Sukiyaki Western Django, che era una noia mortale, però l'ha fatto Miike, ragazzi, che delirio, era una rottura di coglioni. L'estetica era la stessa, facevano la stessa operazione perché omaggiavano due o tre culture diverse, però quella era di Miike, ah, caliamoci le braghe e pieghiamoci, vabbè. Mi ha fatto proprio venire in mente quello, perché i costumi, i capelli con le mesh bianche, oppure biondissimi o rossi, insomma i leoni, i vari colori dei leoni nel film, davvero mi ha fatto venire in mente che è quello. Qui non capisco l'accanimento, anche perché poi ho letto cose paradossali, cioè chi se la prende con i costumi che sembrano di plastica, chi se la prende con... cioè non ha neanche capito cosa stanno guardando. Sì, come tanto con appunto, zombie, per certi versi. Sì, non vanno lì e dicono, vabbè, poi c'è anche chi magari è andato un po' più consapevole, ma effettivamente è stato un po' più freddo nel giudizio, no, io posso anche capirlo. Però sembra quasi che, cioè, non è un appassionato, quindi deve essere già un bravo regista, non sono tutti Tarantino. È un appassionato, ha visto molti film, ma è la prima regia, ed è uno che viene da tutt'altro ambiente. Ha provato, per carità, gli riconosco dei difetti anche grossi, ma... al film, però è guardabilissimo, è divertente, cosa abbastanza rara, perché ultimamente i film di arti marziali, specie quelli che insomma si avvicinano più all'Occidente o viceversa, sono sempre un po' monotoni, ecco, non funzionano più di tanto. È vero, le coreografie non sono il massimo, anche se poi in realtà dietro c'è, non ricordo il nome, comunque lo stesso che usa spesso Tsui Hark, ed effettivamente la regia non è proprio il massimo, e quella è, insomma, il problema è del regista, è solo suo. Sono dei raccordi non proprio fluidissimi, spesso c'è un movimento che non si chiude bene, che poi può essere anche una, o magari è paraculaggine, però può essere letto come omaggio anche questo, perché chi ha visto i film della Shaw Brothers, ma anche in generale, quelli di Bruce Lee, non è che se non fossero girati bene, c'era lo sportivo al centro, e tu dicevi cacchio che bravo. Però poi andando a vedere il montaggio, le cose erano grezzissimi, quindi potrebbe essere perdonabile da questo punto di vista. Però è divertente, ci sono le armi strane, come appunto nei film dello Spadaccino Monco, ma tutti quelli della Shaw Brothers, le spade particolari, il ventaglio con le lame, le lame che vengono srotolate come delle sciarpe, cioè c'è una certa creatività. Poi comunque nel finale si risolleva molto dal punto di vista dell'azione. Io mi sono divertito parecchio nell'ultimo combattimento, quello che poi si divide in tre parti, sì, che segue personaggi diversi. E da lì è ben fatto, insomma, c'è un po' di sangue, un po' di... anzi, è parecchio sangue, spesso va verso lo splatter. E poi mi è piaciuto perché è il film, cioè, non è l'omaggio che farebbe Tarantino, è l'omaggio che fa uno del Wu-Tang Clan, cioè uno che ha vissuto questa cosa mischiata all'hip hop, mischiata agli spaghetti western. Quindi hai dentro queste qui con le capigliature che non c'entrano nulla, con i costumi che non c'entrano nulla, le scene da splatter e le pistole come se fosse un film di Leone, cioè, e lui ha messo dentro tutto quello che da giovane non solo lo ha insomma influenzato culturalmente. Per cui mi è piaciuto questo, ha mischiato, in realtà ha creato qualcosa di anche diverso da quello che avrebbe fatto Tarantino, ha una sua identità come omaggiatore, poi vedremo se ha anche talento. Vabbè, l'ha mischiato, ha preso, ha messo musiche appunto morriconiane vicino a roba alla Isaac Hayes, vicino alle sue, e c'è tutto, c'è l'hip hop, c'è il rap, c'è il western, c'è semplicemente le arti marziali, ma anche insomma i cappa e spada, c'è un po' di tutto. E anche se grezzo, si amalgamano bene. A me è piaciuto, nel senso non mi sono messo a piangere dall'emozione, ma è un esordio, non dico promettentissimo, ma neanche da dire beh, questo è morto prima di nascere, come stanno facendo molti. Sì, come attore credo che dovrebbe smetterla. È tremendo. Mi è piaciuta molto la scena dopo i titoli di coda, che è proprio emblematica, la rigidità di lui come attore e del film. Non so se te la ricordi, magari non l'hai vista. Non bene, non mi ricordo. Allora, c'è una scena aperta ad un sequel. Ah, allora no. Vabbè, non la dico perché non è meglio non spoilerare. Anche, vabbè, non è che sia spoiler, però apre la strada ad un sequel. C'è un personaggio che va da lui e dice dobbiamo combattere ancora. E lui non dice nulla, si alza, rigido, proprio un ciocco, e va con questo personaggio. Quindi c'è un seguito, o forse è solo un modo di ironizzare, insomma, questi film non finivano mai, avevano 4-5 capitoli, quindi... comunque sembra che poi lui voglia dirigere ancora, quindi chissà. Sì, infatti, vabbè, dai. 2014 già due film c'è scritto. Quindi magari sono i sequel, o magari no, vedremo. Vabbè, dai, teniamolo d'occhio. Ma che sì. A me sta già più simpatico di Rodriguez, che è nella cricca, ma io non ho mai amato molto. Quello invece è cazzo roba come si chiama? Planet Terror, oddio, quello era perfetto. Ma insomma, messo poi vicino a Death Proof, sfigurava un po'. Questo è, mi sembra, non so, non mi ricordo qual è il primo film di Rodriguez, ma anche lui probabilmente ha iniziato. Diamo di tempo, dai. Potrebbe essere il Mariachi, primo. Sì, sicuramente è uno dei primi e quello che poi l'ha lanciato, quindi probabilmente sì. Ma sì. Ma comunque dicevi delle scene volutamente grezze, probabile. Diamo il beneficio del dubbio. Però non è che lo faccia notare molto, cioè non fa il classico zoom alla cinema delle Show Brothers, non mette quelle cose, quindi probabilmente gli è venuta male, però fa niente, insomma. È grezzo abbastanza da permettersi di fare un omaggio alla grezzitudine degli Show Brothers. Ma sì, ricordiamo una cosa che non so se sia ufficiale, non so se sia vera. Il film doveva essere lungo di almeno 3 ore, no? Una roba del genere. Ho Sì. letto in questi giorni che la pellicola integrale, poi bisogna vedere perché anche per Django dissero, ah, ma in realtà è che è prima dei tagli il film è sempre lungo, un tot. Però qua se ne parla come se fosse davvero la versione originale, roba di 3 ore e passa. Invece su schermo sono arrivati, cos'è, 100 minuti? Sì, mi Sì, ne pare 110. ha. Quindi manca un po' di roba. Sembra che nel Blu-ray verranno messe scene aggiuntive, ma neanche tanto, una mezz'ora e 15 minuti in più. E chissà cosa c'era in quest'ora mancante. Boh. Beh, vi dico solo, vabbè, sempre tornando sulla regia, però qualche finezza c'è, tipo quando Rote attorno a Russell Crowe che ha appena squartato il ciccione. Lì è come Sì. se la telecamera gli fosse attaccata e ruota insieme a lui. Quella è una finezza, comunque, va fatta notare, perché non è grezzo, sì, ma almeno ogni tanto qualcosa la mette anche lui di buono. E vabbè, in italiano è un nero, è uno schiavo, ricorda molto Django la storia, ma molto magari no, però ricorda. Quindi in italiano è doppiato da Pino Insegno. Beccatevelo anche stavolta. Ma forse è meglio, è che lui in lingua originale è espressivo con la voce quanto con il viso, eh. Ah, Io l'ho bene. visto in lingua originale ed è terribile, a parte che si sente appena quello che dice, e poi ha una parlata molto suadente sì, da un po' da cantante, anche se forse non è quello il suo campo primario. Però è molto biascicata, molto fluida, non si capisce cosa dice a volte. Sì, comunque, tra l'altro qualcuno sul forum di Games Village criticava proprio la scena di Russell Crowe, dicendo che si è sentito in imbarazzo guardandola. Ma perché? Boh, Ha vabbè, fatto sì, cose molto comunque. peggiori. Sì, appunto. Ma no, ma non so, parlava proprio del modo in cui era girata, non di Russell Crowe, quindi non ho Ah. neanche capito. Boh. E poi Russell Crowe è bello anche solo il fatto che si sia prestato. È l'unico attore occidentale, no, a parte il regista, è l'unico occidentale in un film in cui non te l'aspetteresti. Una bella panza con le prostitute, a bere, a fumare Fatto oppio. se stesso, eh. Sì, dai, è molto simpatico, mi è Sì, piaciuto che sì. si sia prestato a questa cosa. Chissà come si sono contattati, che poi probabilmente vedendo la stazza di Crow e il periodo di riprese ipotetico, probabilmente la girata non ti faceva i miserabili. È vero, È anche lì molto strano. cantava. Andava appunto, che arrivava sul set, ah no, aspetta, ho sbagliato film. Vabbè, dai, Ora sì, comunque. Springtime. No, no, devi squarciarlo in due, ah, ok. Ok, Jean Varcena. Va bene, Lasciamo la un'altra. Cina e andiamo in Cile, per favore. Esatto, vabbè, qui, ma tu l'hai visto? Sì. E allora volevo aprire con la citazione. Parliamo di No, i giorni dell'arcobaleno di Pablo Larraín. Larraín, come si pronuncia questo nome? È Vabbè, cileno, francese. Larraín. Ma Pinochet si legge alla francese. Vabbè, Larraín probabilmente, sì, non ci ho mai pensato. Rezza. Comunque, la apro con una citazione. Vorrei dire, prima di tutto, che quello che ascolterete ora è perfettamente inquadrato all'interno dell'attuale contesto sociale. Dopotutto, oggi, il Cile pensa al futuro. Sì, è bello, lo dici ogni Anche volta. lui è un personaggio grandioso, sì. L'ennesima fatica di Pablo Larraín, che non so se non ha diretto molti film, però in pochi anni ha fatto parecchia roba post-mortem, che tra l'altro era legato a questo, perché parlava dell'autopsia di Allende. Ah. Dovrò recuperarlo, che purtroppo è un regista che sto scoprendo tardi. Poi il più recente, Tony Manero, che hanno premiato anche qui a Torino. E in entrambi c'è, oddio, Alfredo Castro, comunque Castro, che è l'attore feticcio, diciamo, del regista, e c'è anche qui in un ruolo secondario. E insomma, dirige questo film politico e storico, che parla di un particolare periodo della storia del Cile. Siamo nel 1988, quindi 15 anni, poco più di 15 anni dalla salita al potere del dittatore Pinochet, e per le pressioni, che poi bisogna vedere le pressioni effettivamente quali erano, da dove venivano, comunque per pressioni esterne dai vari paesi occidentali, è costretto, cioè, parlando del governo, è costretto a indire un referendum in cui finalmente, dopo 15 anni, appunto, chiede al popolo: ma Pinochet vi piace o no? Insomma, lo volete per altri 8 anni? Oppure volete passare a un'altra forma di democrazia, o comunque alla vera democrazia? E sembra una cosa così, dice, che domanda, è una dittatura, voteranno tutti sì, non c'è neanche bisogno di parlarne. Voteranno no ad altri 8 anni di Pinochet. E appunto, in realtà non è così semplice, non è così immediato come passaggio. Tutto in una dittatura la gente ha paura di votare, ha paura di esprimersi. Certo c'è l'occasione d'oro, ma... E quindi in questi mesi che precedono il referendum dell'88 si dà la possibilità alla sinistra, comunque ai partiti dell'opposizione, di andare in TV, cosa che non succedeva appunto dall'inizio della dittatura, e di parlare per 15 minuti a notte agli elettori. Quindi 15 minuti in cui dovevano spiegare al popolo cileno perché votare no, perché dire no alla dittatura di Pinochet. E allo stesso tempo poi il governo e comunque la maggioranza aveva la possibilità di usare altri 15 minuti per fare una campagna per il sì, anche se poi in realtà, come si dice nel film, il governo aveva tutto il resto dell'anno e tutte le televisioni per parlare, quindi è paradossale come cosa. Il film si concentra proprio su questa campagna elettorale, se vogliamo, insomma, anche se poi assume dei toni diversi. La campagna che consiste nella realizzazione di questi mini film di 15 minuti, e per farli viene contattato un giovane già famoso pubblicitario, René Saavedra, che non credo fosse, cioè non so se è ispirato a un personaggio reale, non mi sono informato. Sì, aspetta che lo riprendo, è basato su Eugenio Garcia, però non saprei dirti chi è. Anche perché poi il film passa attraverso un'opera teatrale che si chiama Il Referendum, quindi magari insomma ci sono i nomi alterati, personaggi nuovi, non so esattamente. Comunque è un pubblicitario, non politico convinto, ma comunque aperto un po' alla possibilità di collaborare con la sinistra, che accetta e si mette a realizzare da pubblicitario questa campagna elettorale. E la storia è questa, cioè lui ragiona da uomo della TV, ragiona come pubblicitario, quindi non crea degli spot elettorali, almeno per come li si intendeva all'epoca, ma crea delle pubblicità in cui la gente sorride, canta, balla, mangia le baguette, anche se sono francesi, gente che non sembra cilena, sorridente, con la pelle chiara, e i politici gli dicono: ma che cazzo stai facendo? lo minacciano, lo insultano, insomma c'è proprio una campagna quasi denigratoria, molti si dissociano, dicono: è immorale, tu stai facendo oscurantismo, stai raccontando un Cile che non esiste. Lui dice: vabbè, ma noi dobbiamo vendere questa campagna elettorale, dobbiamo vendere il futuro agli elettori. Gli elettori non vogliono vedere i morti, i desaparecidos, vogliono vedere cosa succede dopo, no? Dicendo no. E il film è tutto qui, insomma, ricostruisce questi giorni e le difficoltà, diciamo, di convincere questi politici. E la prima particolarità, e la cosa forse più bella del film, una delle cose più belle, è il modo in cui il film è girato. Il formato della pellicola intanto è in 4/3, adesso non so le proporzioni esatte, dovrebbe essere in 19 mm, quindi se i vostri siti di streaming non prendetevela col file, perché è girato proprio così, e fate bene a vederlo in streaming, perché nei cinema non si trova, ed è un film che va visto assolutamente, specie in Italia e specie adesso. Quindi girato in questo formato, ma non solo, ma con una telecamera televisiva dell'83, non prodotta nell'83, proprio una dell'83 che Larrain e il direttore della fotografia hanno preso, restaurato e utilizzato per girare un film di 2 ore. Quindi tutto quello che vediamo è nella stessa forma, nello stesso formato televisivo degli spot elettorali dell'epoca. Quindi non c'è, c'è cesura. Noi vediamo immagini di repertorio, poche, e immagini del film, e non c'è differenza, insomma, una continuità visiva che poi contribuisce a creare questo spaccato, questo mockumentary, diciamo, anche se ispirato a fatti veri. Ed estremamente realistico, estremamente avvolgente come approccio. E poi, al di là dell'interesse, insomma, per questo aspetto, che ha una valenza anche stilistica importante, poi c'è il tema di cui parlavo prima, la questione della comunicazione televisiva. Finché parla di una cosa che in Italia è prepotentemente presente nella vita politica e televisiva, insomma, noi davvero abbiamo ancora questo tipo di iconografia nelle nostre TV, nelle nostre campagne elettorali. Quindi davvero un film sull'importanza delle immagini, sulla potenza delle immagini, sul fatto che per dire no alla dittatura sia necessario dire no in tutti i sensi, cioè cancellare quegli anni, non parlarne, dimenticarli quasi, che per un politico, un comunista convinto può essere mostruoso, no? L'idea di pubblicizzare la democrazia, di venderla come un prodotto da supermercato, come qualcosa che si può smerciare, insomma. È un film interessantissimo, perché sì, parla di un fatto storico importantissimo, è una cosa bellissima, gli elettori che dicono no, questo arcobaleno, il colore, la vita. E però come si ottiene? Con un po' di cinismo e un po' di compromessi. E me l'ho trovato un film potentissimo, davvero. Mi ha ricordato il Francesco Rosi dai primi tempi, di Salvatore Giuliano, Le mani sulla città, perché fonde realismo e finzione e ti fa entrare davvero nella storia, ti fa entrare in questi anni, sembra davvero di guardare materiale dell'epoca. È davvero bellissimo, un film di una potenza spaventosa, secondo me, essenziale, semplice anche, perché non è stato difficile scriverne e parlarne, perché è da vedere, cioè racconta tutto lui, è un bisturi che taglia e ti fa vedere quello che c'è sotto, e non tutto quello che c'è sotto è bello, non tutto è eroico, poetico, mitico, come uno vorrebbe immaginare. Insomma, un film americano del genere probabilmente avrebbe raccontato di quest'uomo che ci crede, che fa di tutto, ha una morale ferrea, invece no. Gael García Bernal, che è un po' freddino nell'interpretazione, ma comunica più di quanto deve attraverso questi silenzi, questi sguardi. È uno che ha le idee chiare, è uno ambizioso, che sa cosa vuole la gente, quindi non gliene frega nulla di dire agli altri guardate che porcate ha fatto Pinochet. No, lui fa il suo lavoro, e il suo lavoro è poi ha avuto successo, insomma, perché non è uno spoiler la storia, penso la conoscano tutti. Le elezioni sono andate bene, diciamo, hanno vinto il sì, il no ha vinto del 55%, contro ogni previsione questa campagna elettorale ha avuto successo, non sarà tutto merito suo, ma ha funzionato, ed è bello nel film che non c'è traccia di esultanza da questo punto di vista, cioè esulta il popolo cileno, ma questa persona in cui non crede nessuno fa il suo lavoro a testa bassa e viene anche preso in giro, tant'è che tu guardandolo dici ma chi è, cioè sembra quasi uno sprovveduto, anche perché lo vediamo appunto ripetere la frase che ho citato all'inizio ogni volta, poi cioè, gli fanno togliere il pagliaccio dalla pubblicità che fa per la cola e lui lo ripiazza ovunque, sembra quasi una ripicca, sembra un deficiente, davvero uno che non sa quello che fa, invece per quanto può essere cinico o sembrare cinico, è uno che sa quello che vuole, sa quello che fa, è bellissimo. Film che parla di cose terribili, perché poi dentro c'è, fa vedere anche cosa succede a questi pubblicitari che si azzardano quasi a scimmiottare Pinochet, perché poi c'è tutta la sfida tra le due pubblicità, quella del sì e quella del no, e nel no se la prendono un po' con Pinochet che sta invecchiando, che si ripete un po', senza divisa, senza uniforme da generale, non è più spaventoso, quindi c'è anche l'ironia, è un film che ci concede anche la leggerezza, eppure non è mai leggero, nonostante questo, è grandioso, questa sfida tra generazioni diverse, tra politici e giovani che lavorano nella TV, che lavorano con un linguaggio nuovo, l'Occidente, l'estetica occidentale che irrompe in questa realtà e diventa un riferimento, perché poi lui fa gli spot all'americana, fa quelli della Coca-Cola, glielo dicono proprio, dice, cos'è sta roba? È pubblicità della Coca-Cola, non è campagna elettorale, è... La micro... Però... Eh? La micro... La microonda. Sì, poi in lingua originale è fantastico. Davvero bello, bello, bello, un film da non perdere, purtroppo se lo perderanno tutti, perché non è arrivato nelle sale, neanche con la festa del cinema, ai noi. Già. Yeah. Un país ganador. Allegria, no, l'allegria, Cile, l'allegria gliela viene. Sì. Esatto, sì, tratta con leggerezza necessaria un tema che è ancora dolorosissimo, chiaramente, per tutti i cileni. E mi piace che il pubblicitario non è nient'altro che la Rain stessa, perché è lui che sta facendo un film su quel periodo, ma lo mette comunque in allegria, è un film comunque allegro, e invece di fare il classico film, come fanno anche molti italiani, bisogna parlare del fascismo, di quel periodo, del nazismo, la roba noiosa, la roba lugubre, che per carità è giusto, però se ne può parlare anche in maniera allegra, vabbè, come ha fatto Benigni, vabbè. E la Raina ha fatto così. È una cosa di cui i cileni non vorrebbero più avere ricordo, perché sono stati anni terribili, però se ne può parlare anche in questo modo, si può ricordare, si può farlo con allegria, anche se è stato orribile. E sì, anche a me è piaciuto tantissimo, e mi è piaciuto proprio lo stile, il visivo, insomma, di vedere una vecchia cassetta. E qui ti correggo, non è un 4/3, pensate, è un 3/4. Ah, ok. Sì, sì, perché non è 18, non è 8 mm, 19, quindi è capossese. È un U-matic 3/4 che andavano in voga negli anni 80. Sì, è strano, all'inizio proprio ti confonde, dici, vabbè, ma questo è il classico pezzo di filmato vero, sì, finto, e poi attaccherà con l'HD, dai. Invece no, continua. Anche i titoli, infatti, tant'è che nella recensione dicevo, mi ha fatto venire in mente i film del Dogma 95, perché sì, sì, in realtà è forse l'unico film che lo rispetta in pieno. L'unico momento in cui c'è qualcosa che non va sono gli spot elettorali che hanno quelle scritte in sovraimpressione, ma quello è materiale di repertorio, però nell'aspetto è un film che lo rispetta completamente le norme del Dogma, perché poi non c'è musica neanche, è proprio scarno e... strano. E l'altro spot a dire no, e in questo spot a dire sì. No, poi è bello che il film si prende quelle pause proprio di relax in cui ci vediamo gli spot e lascia totalmente spazio agli spot, che è molto, che è la cosa migliore, è un documentario storico alla fin fine, e fa vedere i documentari veri, quindi per giustificare al pieno l'utilizzo di questo U-matic 3/4, poi piazza gli spot che sono della stessa qualità e quindi, come dicevi, non c'è una cesura. E vedere quegli spot interi è molto bello, è un documentario in effetti, con degli attori, una ricostruzione, forse come hai scritto te, una ricostruzione storica affascinante, ti prende in pieno e poi riesci a toccare tutte le corde del tuo animo. Bello, bello, bello. Non poteva fare meglio di così. L'Arraine è veramente bravissimo. Peccato che appunto 4 film mi sembra abbia fatto. E ne ho già visti 2, quindi sono al 50%. Però sì, sono contento. Bravo, bravo l'Arraine. Ce ne vorrebbe, sì, dei registi così in Italia. Gli è andata male che agli Oscar era con Love, sì, Love, Amour di Haneke. Sì. E a Cannes però ha vinto la quinzaine del realizzatore, e probabilmente meritava molta più visibilità. È uno di quei classici filmoni che una volta probabilmente sarebbe stato piazzato ovunque, specie in Italia quando c'era ancora un po' il cinema sociale, politico. Invece adesso queste cose qui non fanno più discutere, eppure spaventosamente attuale, stilisticamente diciamo anche coraggioso, perché non so quanti avrebbero girato così. E poi è potentissimo, è davvero, mi fa venire poi in mente Salvatore Giuliano, che è sì, girato con gli attori, ma è come se fosse un documentario. Sono quei film che, ti scuotono, sì, leggero, ma poi è completissimo, cioè non mette neanche davanti i personaggi, cioè questa cosa mi è piaciuta, la storia del protagonista, la moglie, la separazione, il bambino, uno dice ecco adesso ci piazza il pistolotto, ce li mette davanti, il dramma di questa famiglia che si spacca, invece no, è marginalissimo, è proprio, fa vedere lui come la vive, perché la moglie è più attiva, diciamo, è un attivista, diciamo, a tutti gli effetti, lui è un menefreghista da questo punto di vista, e quindi c'è la chiusura del rapporto, però è lì, è sullo sfondo, lui è... La storia è la campagna elettorale, lui lo vediamo quando lavora, come lavora, poi sì, come dicevi tu, vediamo tutti gli spot, quasi, sono stati tantissimi, perché ogni notte, ed è bellissimo, perché appunto tu vedi gli attori, vedi loro che li girano, e poi vedi i filmati reali dell'epoca che sono identici, è una cosa pazzesca anche vedere queste immagini, cioè, fa effetto a me che la dittatura non l'ho vissuta, che sono lontano anni da quella cosa, ma... Vedo effettivamente che lui vendeva la democrazia, metteva queste facce, lo spot che citavi tu, quello della coppia a letto, lei che dice no, no, no, fa strano, e tu dici con questo, con quelle stronzate, tra virgolette, loro cercavano di liberare un paese, di dare consapevolezza, e ci sono riusciti. Poi è bello che anche il sì si adatta, poi risponde, appunto, dice, nell'altro spot la donna diceva no, qui invece dice sì. è pazzesco, sembra finto. A me è piaciuto molto sono vere. Quello dove ballano e fa vedere che dietro c'erano i terroristi con le moto. Sì. Sì, sì, che si levano i passamontagna, buttano le armi e vanno a ballare davanti all'arcobaleno. E lì avrei detto, viva la dittatura! Bravi! Sì, sono dei creativi, perché poi quando entra in gioco il personaggio di Castro e diventa davvero una sfida tra pubblicitari, è appassionantissimo anche come opera di finzione, io lo adoro. È un film che comprerò appena esce, bisogna pubblicizzarlo a tutta birra. Speriamo esca in cassetta e non in Blu-ray, perché sì, è vero. Ha senso. Sì, potete prenderlo in DVD anche, insomma, non state a fissarvi con la qualità dell'immagine, perché tanto è quella. È bello anche nei titoli di testa che si vedono i colori sfasati, proprio... Probabilmente l'hanno anche maltrattata la telecamera, hanno fatto un'operazione di invecchiamento del girato, perché non è solo vecchio l'oggetto con cui girano, è proprio l'effetto visivo è antico. È vero, una roba maniacale, pazzesco. Ecco, quindi quando uscirà il Blu-ray Sergio Leonard sarà il primo a lamentarsi per la qualità. Sì, voglio i miei soldi! Mancano le parti ai lati ed è tutto sgranato. È tutto scavallato. Scavallalo. Vabbè. E il prossimo, andiamo da un'altra, torniamo in Asia. Sì, già, mi sono fatto i due asiatici. Da un film vecchio, perché è dell'88, a un film altrettanto vecchio, perché è uscito con un ritardo spaventoso in Italia. Confessions di Tetsuya Nakashima. Purtroppo cioè non ha senso averlo fatto uscire adesso, perché sono passati 3 anni, chiunque doveva e voleva vederlo l'ha visto, okay? Io e te, anche te l'hai già visto da tempo, sì, no? Sì, più o meno poco dopo che l'hai visto tu, perché se ne parlava in quel periodo. Poi te l'avevo consigliato io, te l'avevo detto, ma poi ne parliamo, comunque anche se non mi è piaciuto tantissimo, te l'ho detto, guardalo perché merita. Ed era intorno al 2011, cioè un conto è far uscire un film con un annetto di ritardo, due, questo ormai ne ha quasi tre, è terribile, anche perché appunto chi l'ha visto l'ha visto, chi vorrebbe vederlo non può vederlo perché è uscito in 14 copie in tutta Italia, cioè se non abitate in una grande città non potete vederlo, vabbè, fa niente, perché tanto... Il trattamento Studio Ghibli. Sì, però quelli... cioè... hanno un solo giorno, e a parte Kiki che stranamente è fuori ormai da 3 settimane, e poi subito il giorno dopo esce il DVD, quindi è una cosa tipo, vabbè, andate in sala se volete, ve lo diamo per un giorno, perché il bello di vederlo in sala. Confessions non ha senso, era un film che io davo per morto ormai, boom, non lo faranno mai, come anche Hunger, però quello è uscito perché era trainato da Shame. Questo non ha assolutamente senso, però fa niente. Tetsuya Nakashima è un regista che a me piace tantissimo, nonostante quasi tutti i suoi film non mi abbiano convinto in pieno, è strano, è così. Sarò breve perché è un film di cui ricordo un po' poco. Te l'hai rivisto? No, no, no. A parte che al cinema non c'era, non ho sentito la necessità. Hai rivisto quasi tutto, però, insomma, non proprio alla perfezione l'ho rivisto. E poi perché stiamo mettendo un bel po' di tempo. Vabbè, comunque, poi la casa richiederà parecchio tempo. Nakashima, grandissimo visionario, è un ex pubblicitario, ecco, passiamo da un pubblicitario cileno a un pubblicitario giapponese, che ha provato a fare del cinema, dopo passare dagli spot a fare cinema, e gli viene bene, ha davvero un bellissimo occhio e una bellissima mano. Vi consiglio di suo, a parte Confessions, ma anche il cult, l'Amélie giapponese, che è Memories of Matsuko, che anche quello, alla fine, ha gli stessi difetti di Confessions, che ora dirò, e soprattutto Kamikaze Girls, che è bellissimo, è veramente una gioia, e poi c'è Kyoko Fukada, che lei è una gioia solo a guardarla. Vabbè, è veloce, trama velocissima, anche perché vi posso dire solo i primi 30 minuti, che sono comunque belli potenti. Siamo nella classica scuola giapponese, la classe riunita, tutti fanno casino, c'è la professoressa che tenta di spiegare qualcosa, ma ovviamente non viene filata. E visto che nessuno se la fila, incomincia a raccontare una storia personale, anzi la propria storia. Racconta del suo ex marito, che ha contratto l'AIDS, racconta di quando si sono lasciati, perché lui non voleva infettare la figlia che avevano appena avuto, e il racconto prosegue fino a qualche giorno prima, appunto, di questo momento, in cui la sua figlia è morta, è affogata nella piscina della scuola. Lei racconta tutta questa storia drammaticissima, e anche in questo caso nessuno se la fila, proprio non reagiscono quasi. Reagiscono un pochino quando lei rivela che sa benissimo che non è stato un incidente, come le dice la polizia, ma è stato qualcuno della classe. E anzi, sa benissimo chi è stato della classe, perché c'è stata appunto una confessione di uno dei due killer. A questo punto la classe un po' si sveglia e dice: ah, sappiamo chi è, iniziano a girare i messaggini, si danno le colpe di qui e di là, quando lei praticamente rivela chi sono i due, ma non lo dice puntando il dito, ma rivelando un'altra volta, ma sì, fa niente. Che nel latte che ha appena distribuito, perché più o meno è tempo di merenda il pomeriggio, nel latte che ha appena distribuito ha infilato un po' di una siringa, un po' di sangue siero positivo preso dal marito, e l'ha dato ai due colpevoli, e i due appunto reagiscono, insomma si svelano i due colpevoli, uno scappa addirittura fuori perché ha appena bevuto del sangue contaminato. E questi sono solo i primi 30 minuti. Sembra una cosa che si potrebbe chiudere in 5 minuti, questo riassunto, questo raccontino. Invece viene abbastanza dilatato, viene spiegato molto bene. Sembra di vedere uno spot all'inizio, in effetti è da lì che arriva Nakashima. E vabbè, poi i protagonisti sono i due ragazzini, la loro reazione a questa vendetta, ma anche qui siamo solo all'inizio, è solo una prima parte, poi ne succedono di ogni. E vabbè, Nakashima passa da un film tutto gaio e buoni sentimenti, beh insomma, c'era anche del drammatico, di Memories of Matsuko, a questo, che di buono non c'è nulla. È più nero della notte, è un concentrato di odio, di depressione, di morte, è terrificante, non c'è uno spiraglio di bontà, di buoni sentimenti. Ecco, siamo appena passati da No, che era un bellissimo film allegro, a questo che proprio vi toglie il sorriso per un paio di giorni, vi tira un cazzottone nello stomaco e vi fa anche una mutandata. È veramente pesante, ma pesante nel senso che è opprimente, talmente è cattivo in una parola. E questo basterebbe, perché è bello che un film comunque commerciale si permetta di tirar fuori una storia così, che non ha niente di commerciale, non ha niente che potrebbe, non ha nulla per cui potrebbe essere piaciuto dal grande pubblico. In più ci mette appunto l'occhio di Nakashima, che è una fotografia bellissima, una gestione dell'inquadratura, della scena, bellissima. Lui è un grandissimo regista, perché insomma, questo è innegabile, però finisce che ci mette troppa roba, mette troppa carne sul fuoco, stracarica troppo il film. Inserisce un mucchio di rallenti, non se ne può più. Davvero, sia dall'inizio alla fine ci saranno almeno un'ora di rallenti. Ci lamentavamo tanto di quello di Sucker Punch, come cavolo si chiama? Snyder. Ci lamentiamo tanto di Snyder, ma questo è il triplo di quello che metterebbe Snyder. E poi deve caricare ogni scena. C'è già un dramma pesantissimo, c'è una bambina assassinata da due teenager, del sangue infettato, una vendetta terrificante, quanto fredda, di un insegnante. Basta questo. Perché Haneke è bravissimo nei suoi film? Perché non aggiunge nulla, racconta una storia come la racconterebbe il telegiornale, il giornale, anzi i telegiornali adesso esagerano, quasi da film anche loro, è cronaca nera. Basta raccontare questi fatti, ti sconvolgono ugualmente, non serve il rallenti, non serve caricarle queste cose, sono già dei mattoni così. Eppure lui lo fa, e quindi alla fine è come un boomerang, gli torna indietro. Invece che essere un vero pugno nello stomaco, è un film che stufa. Alla fine appunto ottiene l'effetto contrario, invece di buttarti a terra, ti sostiene, ti continua a far vedere del male, ma non è mai un male terrificante, perché è molto cinematografico. Questo è il suo grande difetto, come era anche in Memories of Matsuko. Carica troppo, deve lasciar parlare le immagini per come sono, niente post-produzione, niente elaborazione successiva. È un pubblicitario, purtroppo è nel suo modus operandi, lo farà sempre, mi dispiace, però deve lasciare il progetto così com'è, il girato così com'è. Questo è il grande difetto. Per il resto è un bel film, è un macigno, in effetti. Niente, lascia senza parole per la cattiveria che ha. Peccato che lo vedranno in pochi, ma comunque i pochi che l'hanno visto stanno parlando di capolavoro, quindi sono comunque contento, anche se io non l'ho gradito totalmente. Tu che ricordi hai? Io ho le stesse sensazioni, te l'avevo anche detto all'epoca, non, più che altro se la sua, il suo, lui come autore è così, insomma, questo è il suo approccio, per cui probabilmente il problema non è lui, ma è il tipo di storie che racconta, probabilmente deve puntare ad altro, oppure affrontarle abbandonando poi quelli che sono i suoi vezzi stilistici. Ma è più che la messa in scena, che sì, non ripeto, comunque non ho gradito del tutto neanche io, ma io poi ho proprio un problema con la forma del dramma orientale, che è sempre esplosivo, sono sempre molto eccessivi in questo tipo di storie, no? Non è mai un dramma appunto come potrebbe raccontarlo Haneke, che comunque sa essere durissimo anche lui, però qui è un. Poi questo chiaramente è un film a parte, ma è una sensazione che mi fa anche, che ne so, un film di Kinky Duke, Pietà, come tipo di rappresentazione dei drammi. È sempre molto plateale. E in questo caso poi va alle estreme conseguenze, perché specie nel finale, non solo a livello di messa in scena, ma anche di sceneggiatura, va oltre il drammatico realistico, va verso la fiction spintissima, cioè mi ricordo che andava, diciamo, tutto bene fino a proprio alla conclusione, in cui diventa un po' un thriller, un po' c'è questo sovraccaricare, sì, poi rallenti su rallenti, che quindi appesantiscono quella che è già una situazione spinta oltre il limite, Io non, ecco, a me piace un po', in questo genere almeno, mi piace il cinema più misurato, però capisco anche che c'è un perché, cioè loro sono così anche a livello culturale. Uno dice, sembra troppo, sì, però poi vai a vedere da dove vanno a trarre ispirazione questi film e scopri che sono cose che spesso e volentieri sono successe davvero. Quindi, in un certo senso, era un realismo anche questo. E che hanno un modo di raccontarlo che, appunto, mi viene a dire esplosivo. E, che ne so, un altro esempio che mi ha un po' infastidito, il recente remake di The Housemates, The Housemaid. Ah, sì. Che ha questi finali che ti deve piacere quel tipo di messa in scena. A me il cinema orientale piace molto, però lo preferisco quando è disteso in tutto. Quando vanno verso il drammatico, non sempre per carità, ma anche l'horror, anche specie il cinema giapponese, ha un modo di mettere in scena che è fortissimo e a volte funziona, a volte meno. In questo caso, al di là dei meriti tecnici, secondo me non funziona. È un film che spinge troppo sul pedale e si schianta proprio nell'ultima parte. Peccato, perché appunto sono anche, poi lo frega questo, che sono una specie di tre false partenze, sono tre storie che cominciano insomma amplificano questo effetto, però è un ottimo inizio, è una storia che ti stende da subito. E sì, poi condivido anche le perplessità sulla distribuzione, certo, sempre meglio così che niente, specie per chi non è magari appassionato, chi non frequenta internet, siti, non conosce chi può consigliare, cioè almeno ci arriva, però appunto se poi ci arriva in quattro sale non ha neanche senso. Probabilmente queste sono operazioni di ripiego, magari hanno preso le pellicole, hanno fatto un inizio di distribuzione, poi hanno detto no, non vale la pena, liberiamoci del materiale e poi lo distribuiamo direttamente in DVD. Cosa che qua magari nemmeno succederà, perché non credo. Non... Cioè, oddio, è arrivato al cinema, quindi il distributore potrebbe decidere di distribuirlo anche in un video, ma non so. Beh, sì, essendoci italiano, come doppiaggio, ormai qualcuno penso se lo comprerà. Sì, di solito quando arriva al cinema, insomma, la copia c'è. Se diciamo ci sono i fondi per il distributore, poi si fa. Sì, è un autore interessante, diciamo che da questo film non mi innamorerei di lui. Probabilmente mi piace di più, mi piacerebbe di più vederlo alle prese con altro, i suoi film precedenti, ma anche storie diverse. Ecco, il dramma è difficile, bisogna essere composti anche quando ci si lascia andare, appunto come fa Neke, per cui, o magari ha sbagliato genere, poi comunque sta piacendo, sarà un problema mio, non lo so. Ebbene, e un altro dramma adesso, sì, abbiamo pianto. Umano, sì, vabbè, io quando annunciano un remake piango sempre, specie quando annunciano i remake dei classici più classici, cioè. E ancora peggio quando fanno il remake di un film che un remake ad alto budget di un classico che aveva la sua forza nell'essenzialità, nella semplicità del budget, perché della messa in scena è l'esatto opposto. E poi ne parleremo, uno dei problemi. Comunque sì, stiamo parlando della casa, uno dei film, diciamo sì, degli horror più attesi dell'anno, perché io su internet ho visto un interesse enorme che non vedevo da anni nei confronti di un horror, per non parlare di un remake che di solito genera sempre perplessità, tranne quando magari lo danno a uno come Zombie, che fa Halloween e dice vabbè, oh, è Zombie, vado a vederlo. Qui è un esordiente e si chiama Fede Alvarez, che ovviamente non conosceva nessuno prima, e insomma, era un po' difficile perché aveva fatto solo cortometraggi, e tramite i cortometraggi Raimi lo ha scoperto. Tra l'altro un cortometraggio in particolare, anche se credo che poi ne abbia girati solo due, almeno reperibili, Panic Attack, che è una cosa originalissima proprio, specie di questi tempi, racconta di un attacco di robot enormi alla città di Montevideo. E tutto qui, cioè fa venire in mente proprio No di Larrain. È un film con il taglio realistico che documenta questa cosa senza spiegare nulla, da dove arrivano, cosa fanno, cosa vogliono. E tu dici, vabbè, ma che c'entra questo con la casa? Come mai Raimi gli assegna la casa dopo aver visto questa cosa? E non è così semplice. In realtà dovevano proprio realizzare un lungometraggio basandosi su questo film. Secondo me hanno mollato non per i soldi, ma perché adesso esce Pacific Rim, che sta facendo piangere un po' tutti i fan del Toro, perché sono lì in attesa, un'attesa che capisco fino a un certo punto, ma vabbè, per cui probabilmente hanno detto vabbè, lasciamo stare i robot che per adesso non vendono, facciamo un'altra cosa, e gli ha dato sceneggiatura e regia del remake della casa, che è prodotto da Raimi, Tappert, il solito, e anche da Bruce Campbell. E niente, quindi ci siamo ritrovati con un remake di uno dei film più importanti della storia dell'horror, che era girato in modo rivoluzionario per l'epoca, era dettato le regole del cinema non solo horror successivo, ha lanciato una star come Bruce Campbell, che poi non ha fatto quasi più nulla, ma è un grande attore, un ottimo caratterista, che purtroppo è rimasto fermo in questo genere, e nei camei di Spider-Man. Quindi è uscita questa cosa terribile, tutta la critica ne parlava da Dio, proprio ricordo critiche urlate, quanto è bello, quanto è divertente, e il pubblico in generale sta condividendo. La storia non ve la racconto perché tanto la conoscerete tutti, insomma, se non la conoscete cospargetevi il capo di cenere, perché insomma la casa, a parte che è una trama essenziale, ma insomma andrebbe visto a scuola e nelle scuole. C'è qualche piccola variazione, questa volta più che un viaggio di piacere è un tentativo di far guarire Mia, che è una dei protagonisti, dalla dipendenza dalle droghe, e questo fornisce forse l'unico spunto interessante, che è quello, diciamo, l'obbligo di rimanere in questa casa, insomma lei deve smettere di drogarsi, e quindi decidono i suoi amici, da qui non ce ne andiamo finché lei non è pulita. E tu dici, ah, che bella idea, la useranno. In realtà è un pretesto all'inizio, poi purtroppo si perde un po', ed era l'unica cosa che davvero mi faceva sperare nelle prime scene. Il resto, va bene, prosegue a grandi linee come tutti i remake, non è shot by shot, ma quasi. Qualcuno dice, non è un remake, è un sequel, perché si vede la macchina di Ash nel prato davanti alla casa. Sì, probabilmente lo è, ma... Vabbè, chi se ne frega, perché comunque è un remake a tutti gli effetti. Puoi mai chiamarlo reboot, come fanno la Marvel, puoi chiamarlo sequel, prequel, però se il film è quasi uguale, è quasi uguale. Ma chi se ne frega, non lo andiamo a vedere per la trama, lo andiamo a vedere per divertirci, perché l'originale era spassosissimo ed era girato in modo pazzesco. Va bene, la casa di Fede Alvarez non ha nulla di quello che aveva reso grande la casa di Raimi. Registicamente, come dicevo nella recensione, l'ho guardato così, con un occhio più attento allo splatter e ad altre cose, però ho notato una piattezza piuttosto generale del film. Quando smette di essere piatto è perché scimmiotta direttamente Raimi. Ci sono inquadrature riprese pare pare, c'è la classica corsa, la ripresa, insomma, che ha reso famoso Raimi e la casa, quella corsa nel prato della telecamera, della macchina da presa che va verso i personaggi, questo demone che avanza tra i boschi, ripresa, ripetuta, anche accelerata rispetto all'originale, perché Raimi la faceva con la motocicletta, oppure a mano con la macchina da presa su una tavola, correndo, invece Alvarez no, deve rendere tutto veloce e dinamico, quindi pellicola accelerata. Il resto è piuttosto piatto, sì, c'è qualche inquadratura simpatica, tipo una che torna in mente, quella del fucile, con la macchina da presa che sale appoggiata alla canna del fucile e insomma segue tutta la traiettoria dello sparo, e ci sono dei momenti in cui si spera quasi che Alvarez prenda una sua direzione, invece no, non fa nulla, fa l'horror canonico che dirigerebbe qualsiasi mestierante, ogni tanto si rifà a Raimi perché è inevitabile, ma non ci mette idee, non ci mette forza, non gira proprio il classico remake, non c'è passione, non dimostra un talento particolare, non lascia neanche ben sperare per i sequel già annunciati, io l'avrei dato già un altro personalmente. Si dice che nel prossimo ci sarà un cambio di rotta stilistico, vedremo. Comunque non c'è davvero nulla che giustifichi l'esistenza di un remake. La storia, come già detto, è uguale, ma queste novità, queste cose che lui cerca di introdurre, perché comunque è co-sceneggiatore Alvarez, e insieme ricordiamo la Diablo Cody, che ha scritto solo i dialoghi, poi l'hanno allontanata perché non volevano che rubasse la scena, certo. Visto che aveva fatto poco, i dialoghi infatti sono incisivi al massimo, proprio roba delle finezze spaventose. E la storiella, lui ci infila questa variante, da qualche parte ho anche letto che voleva proporre qualcosa di diverso, non dare ai fan il remake pedissequo. E in realtà fa questo, quando interviene con la storia della droga, poi fa un pasticcio, perché ci vuole infilare anche la riflessione, profonda o meno, sul concetto della dipendenza, che sembra essere confrontato, paragonato alla possessione diabolica di questi personaggi. In realtà è una stronzata, cioè è una cosa elementare, ci arriva qualsiasi scemotto o una idea del genere, va bene, la droga è cattiva, uscirne è complicato, è doloroso, è straziante, e quindi boh, mettiamo che lei va lì e invece di uscire dalla droga deve uscire da questo inferno in terra. È proprio una cosa che fa gridare al miracolo, eppure riscuote successo anche questo, vabbè. Quindi niente di che. Allora viene naturale cercare, insomma, divertimento e originalità nell'aspetto di cui poi parlano un po' tutte le recensioni, lette o meno, insomma, se ne parla molto su internet, dello splatter, della realizzazione degli effetti. Tant'è che qualcuno urla al miracolo, ritorna allo splatter, perché? Perché Alvarez sceglie di realizzare gli effetti solo con, diciamo, trucchi artigianali, quindi lattice, qualcuno ha detto usa anche degli animatronics, quindi scheletri elettronici mossi sotto il lattice, probabilmente è così in alcune scene. E nulla, niente computer grafica, nulla di digitale, che poi andando a vedere bene non è proprio così, perché in qualche passaggio diventa un po' più evidente la computer grafica, è presente, e comunque ci prendono un po' per il culo questa storia della computer grafica, quando in realtà comunque il grosso si fa tutto in post-produzione, non solo aggiungendo oggetti, elementi finti con il computer, ma anche pulendo l'immagine, scurendola come in questo caso, aggiungendo l'occhio di quel colore, la pelle più scura, il sangue nero, il sangue rosso, quello si fa tutto in cabina di montaggio dopo. Per cui possono dire quello che vogliono, ma è tutto molto ritoccato, e non solo, poi questi famosi effetti speciali, questo splatter tornato in vita è molto, non dico edulcorato, perché no, effettivamente al cinema non si vede così spesso questo tipo di violenza, però non è neanche il miracolo che molti vanno decantando, anche perché appunto l'immagine è molto scurita, sembra intenzionalmente per abbassare il rating, ma dico io, chi se ne frega, se vuoi fare il film, vuoi fare lo splatter, o me lo fai vedere o sacrifichi e mi propini un prodottino. In questo caso è così, io che personalmente mi ritengo appassionato di horror, vedo le peggiori schifezze, cioè negli ultimi 40 anni si è visto ben di peggio, ma anche al cinema, io ricordo che per esempio il finale di Silent Hill mi colpì di più di quanto mi ha colpito questo finale. Sì, bella la pioggia di sangue, però ripeto, non mi sembra così complesso realizzarla in quel modo, da come ne parlavano io mi aspettavo qualcosa di più invasivo. È un gioco di inquadrature, addirittura si parlava della maggior quantità di sangue presente in un film. Secondo me non si avvicina neanche a Shining, perché è tutta lì concentrata sulle scene, una pioggia, insomma, è un po' più semplice produrla. Non spiazza da questo punto di vista, non sconvolge, a meno che non si è un po' più sensibili come le spettatrici alla nostra sinistra, che hanno addirittura passato tutto il tempo del film ascoltando l'iPod, la musica, per non sentire le urla, i rumori terribili. Sì, è spassoso, ci sono delle scene che qualche brivido lo fanno venire, i soliti arti mozzati, però anche qui c'è un taglio al punto giusto, un'immagine scurita al momento giusto, è tutto ripulito. Poi per carità, si può parlare semplicemente, cioè, considerando che come remake non è riuscito, come film in generale è deludente, si può concentrare sul concetto semplice di divertimento, e sì, ci si diverte, perché è innegabile, almeno per me, qualche momento di ilarità, di qualche sorriso, qualche scena che è talmente eccessiva da scatenare un po' la risata, anche involontaria, c'è un qualche passaggio davvero divertente, però sono passaggi, sono momenti, non c'è una continuità, c'è troppo, davvero, anche riguardo alla trama, c'è troppa voglia di mettere dentro dialoghi, far vedere che questi personaggi non sono monodimensionali, in realtà lo diventano ancora di più monodimensionali, perché si mettono a parlare delle cose più improbabili nei momenti più improbabili, sono nel panico, nel caos, e cosa fanno? Si mettono a rimuginare, tua sorella, mia sorella, tu non ti sei fatto vedere, dobbiamo fare questo, nel libro c'è scritto quest'altro, e appunto poi il libro è un esempio emblematico, perché nell'originale era una cosa illeggibile, loro la aprivano, vedevano queste immagini, dicevano bene, chissà cos'è, poi il nastro registrato che sentivano faceva partire tutto. Qui invece no, c'è il personaggio con gli occhialetti che si prende, apre il libro e si sente in dovere di leggere queste parole che poi danno, risvegliano il demone, e va bene, fin qui ci sta, la curiosità lo spinge. Però poi cosa succede? Che sfoglia questo libro demoniaco e ci sono le immagini di quello che succede nel film, quello che succederà, quindi tu sai già che un certo personaggio si farà questo e un altro si farà quest'altro. Cioè è tutto spiegato troppo, più volte, nei momenti sbagliati, sei sotto questa pioggia di sangue divertentissima e ti fermi a riflettere su quello che devi fare, su quello che non devi fare, questi capiscono tutto, sanno già come muoversi, arrivano delle conclusioni pazzesche, quando in realtà la forza del Finiraimi era l'immediatezza, cioè Ash in poche scene si ritrovava da solo ed era scoperto di sangue e frattaglie, e non si fermava a dire, e adesso che facciamo? No, era lì, e la regia cosa faceva? Lo seguiva, era pazzesco, lo pedinava in questi corridoi che non c'erano, perché era una casetta con quattro stanze, senza intercapedini, senza veri e propri corridoi, però ti si faceva girare dentro, ti ci perdevi, perché Raimi era infogliato, cioè girava la macchina da presa in angolazioni assurde, la muoveva, la rimuoveva, la faceva correre, era davvero una cosa che non si era mai vista. Qui cosa succede? È uno spazio enorme, le inquadrature sono statiche, la casa sembra una reggia, quindi non c'è neanche il senso di claustrofobia, e quindi non c'è proprio vita, non c'è nulla di creativo. Quindi mi chiedo anche poi chi ne esce soddisfatto da questo film, ma per cos'ha di diverso questo dalle centinaia di remake che ci propinano ogni anno? E perché Raimi ne parla bene? Poi sì, nella recensione dico, è una cosa che conta fino a un certo punto, perché Raimi poi parla bene anche degli Spider-Man suoi, ma anche di The Amazing Spider-Man, perché sono cose che si fanno, bisogna vendere, va bene. Però il pubblico, gli appassionati di horror che si fanno, e ce ne sono tanti, poi magari la gente che ha borbottato per il film di zombie, perché si crede autore. Vabbè, ma questo qua chi è? Un mestierante come tanti? Un remake come tanti? Non capisco. Non è stata una delusione perché non c'era fiducia in questo film. Mi sono divertito, non lo boccio neanche, perché potrei anche dargli una sufficienza, prendendolo così, senza confronti, però è appunto una sufficienza, una robetta che l'anno prossimo è già passato, peccato che ci saranno i sequel che ci ricorderanno continuamente che è esistito, però ecco, mi viene in mente una cosa recente, il Non alla pietra con la porta, uscito poco tempo fa, anche lì c'era qualche scena splatter gustosa, però era robetta, cioè i personaggi sono piatti, sono sempre le stesse cose, non c'è carisma in nulla di questo film, cioè, più carisma negli ultimi fotogrammi dopo i titoli di coda, a proposito fermatevi, anche se è lunga e non è detto che ne valga la pena, più carisma in quei pochi fotogrammi, in quella cosa che si vede, che in tutto questo film, ed è paradossale, perché vuol dire che siamo ancora fermi agli anni Ottanta, cioè, e poi ripeto, chi promuove sta roba qui dicendo, è tornato lo splatter, sì è tornato, ma cosa vuol dire? Che siamo tornati agli anni Ottanta, che prima eravamo sotto. Cioè, abbiamo fatto, in questi 30 anni siamo tornati al livello degli anni 80. Se c'è da essere contenti, mi sembra strano. E basta, se no. Va bene questo, cioè non va bene questo, cioè va bene questo, ma non va bene Zombie, che è una cosa nuova. Questo è un remake ed è anche stantio. E vabbè. Contenti voi, veri amanti dell'horror. Io non lo sono, però. Vabbè, non sono così esperto, lascio la parola a voi. Però ecco, io dico che questo è un brutto remake di Jurassic Park, diciamo la verità, te l'ho detto durante il film, non è possibile, non si vedono i dinosauri prima di tutto, certo c'è la Jeep ed è proprio quella del film, e poi c'è anche le scene sotto la pioggia, però mancano i dinosauri, ma com'è possibile, come si fa a fare un film del genere? Jurassic Park, gli hanno dato un altro nome, è vero, però insomma la gente lo capisce, e poi è terribilmente maschilista, però questo è in linea con Jurassic Park, ti ricordi? Tutti i dinosauri erano femmine, no? È vero. E qui sono tutte femmine quelle che ammazzano. E quindi, certo, bravi, vi siete attenuti a Jurassic Park, però potevate essere più fedeli in altre cose. È un dispiacere. A parte questo, ti ricordi quando stavamo per entrare in sala ti ho detto è bella, è bellissima la locandina, vuoi vedere che è l'unica cosa decente del film? Quasi, quasi sì, ci ho preso. Il livello quella è quello. La cosa più bella. Beh, sono piatti allo stesso modo, immagini monodimensionali. No, incredibilmente sembra più piatto il film di una locandina. È incredibile, ma è così. Ah vabbè, io quando sono entrato, a parte Jurassic Park, ho voluto sgombrare la mente da La Casa Vecchi, sia l'uno che il due, nonostante li avessimo visti la sera prima, però ho voluto proprio dire, ok, dimentichiamo che sia un remake, o un reboot, o un sequel, o quello che volete. Lo prendo come film a sé stante, e vediamo com'è, e forse qui ho sbagliato, perché mi sembra insignificante, totalmente dimenticabile, e appunto il suo unico pregio è quello di essere un remake della casa. Se io tolgo anche questo, non rimane niente a questo film. Mi è sembrato il solito horror che ci propinano da anni, remake o non remake, non ha niente di che. Certo, c'è la pioggia, quella ce la ricordiamo, e soprattutto la scena successiva, quella bellissima, quella bisogna ammetterlo, però sì, non vale, sì. Non vale quant'è, 99 minuti, no, 90 minuti? Sì, 91, 92. Una scena non vale tutto il resto, bella quella però. Per il resto, cosa? C'era il suono del telefono, boh, non so. Mio o tuo? No, il suono, non so, il mio non è squillato, boh, vabbè. Anche il mio, vabbè. Vabbè, il primo tempo è anche passato velocemente, anzi, è volato, non me ne sono neanche accorto. Questo non vuol dire che sia stato un gran capolavoro il primo tempo, no, però. Poi è anche strano, perché il primo tempo non, diciamo che è introduttivo, il secondo dovrebbe essere quello più frenetico, eppure sì, anch'io ho avuto questa sensazione, chissà perché. Il secondo non finiva più, c'è quel finale in cui mi hai anche sentito, ho detto più volte e dai, e finisce. non, c'è un primo finale, dici bello, finalmente, e comunque è finito, invece no, c'è un secondo finale in cui praticamente dice che è molto meglio drogarsi. Questo è il significato finale del film, lasciate perdere la disintossicazione. E poi c'è questo finale, primo e secondo uguale tanto, in cui si prende troppo sul serio. Vuoi essere un horror cacciarone e divertente? Rimanilo fino alla fine, a parte che non lo è, però tu ti sei divertito, immagino che altri si siano divertiti. Vuoi essere quel tipo di film? Fallo, non andare alla fine con i violini, la musica è in crescendo, sembra che te ne sei lamentato anche te proprio in quel momento, no? Mentre... Sì, quella scena che poi è una citazione, diciamo, all'uno. Vabbè, però... Che, sì, ecco, ti accosta un momento che sembra più vicino al 2 originale, quindi ironico, e poi mi metti, sì, quei momenti del dramma, la droga, la mamma morta, la ninna nanna. Sì... lo appesantisce e lo rende ancora più detestabile. Perché hai dovuto mettere... Cioè, sei uno che fa i corti con i robot, perché devi andare a finire in quel modo? E il resto, niente. Mi è sembrato veramente la solita roba. Non lo distingo dal mucchio. Tu dici dignitoso, no? Nella recensione. No. No, ho detto divertente a tratti, cioè sì, dignitoso come realizzazione, sì, perché non è girato male, ma come film, ma anche non è che sia un bel aggettivo, dignitoso, no, ma appunto anonimo. Però tutti i film ormai sono dignitosi, sì, cioè è difficile trovare il film brutto, forse la regia è l'unica, per certi versi ovviamente, che batte l'originale, perché qui è tutta perfetta, l'altro era grezzo, però cavolo, l'altro sono... Vabbè, il secondo è già fatto molto meglio, in senso, insomma, di forma, però cosa sono, 80 minuti di corsa? no? È un continuo, non ti rendi conto, ma sono passati 90 minuti, in questo non corrono mai, non c'è mai un momento di pathos, e quindi questi 90 minuti li senti tutti. Quindi è una, sì, è una stravittoria, una vittoria schiacciante per l'originale, il remake o non remake, proprio film presi a sé, sì, stante. Sì, secondo me il suo pregio è che dura poco, tra virgolette, che comunque già è più dell'originale, ma se non durasse così, se durasse 10-15 minuti di più, secondo me sarebbe morto, cioè sarebbe noiosissimo, perché già così arriva al pelo della sopportabilità, perché sono dei momenti di stanca che davvero uccidono un film di questo tipo. Invece così rimane per un pelo nelle durate tollerabili, va bene, se no davvero, perché si mettono lì a parlare, riparlare, sì, il momento con i violini, quando dici ma come si fa, hai appena costruito quella cosa che costruisci in quel modo e dici ah ok, un momento sì stupido, ma è stupido come poteva essere la motosega attaccata alla mano, quindi dici quasi ecco, ecco che si ripiglia, invece no, il pistolotto dei pianti, le cose, ma è indeciso, cioè vuole fare il remake, quindi copia le inquadrature, ma vuole fare diverso e quindi è piatto, vuole fare la storia nuova e inserisce delle novità inutili, stupide, oppure lo copia, cioè non sa che fare, sembra proprio un pasticcio anche. E ne vedremo altri due, no? Ma almeno se è vero quello che dicono, vedremo anche quelli di Raimi, che con Drag Me to Hell, che Dio lo benedica, ha dimostrato di essere ancora ben vispo, però sì, se il prezzo da pagare sono altri due, tre film di Alvarez, così, poi, bah. Diciamolo, Alvarez torna a fare il trequartista dell'Inter, ecco, basta. Sì, dai, siamo già in emergenza, tu vuoi fare anche... No, che l'Inter è già messo male, voi. Non lo so. Ma... ma Andreotti ha fatto in tempo a vederlo, questo film? Ma no, però è all'inferno, questo film parla dell'inferno. A proposito, mi è tornato in mente, ma che c'entra il diavolo? Ecco. Era dimenticata, una recensione ne parlo, leggetela, questa è stata una discussione strana. Sì, non ha neanche capito l'originale, era un demone sumero e i posseduti avevano un modo diverso di essere posseduti, qua sembra l'esorcista. Ah, sei una troiaccia, ah, la droga, sei insopportabile. Le fiamme dell'inferno, l'anima, ma che è? E ancora sti fantasmi, ste cose con le ossa che scricchiolano. Madonna mia, The Ring è la morte dell'horror proprio. Quindi che c'è? Ah, comunque, sai che vabbè, siamo ancora in trasmissione, ma fa niente. Andreotti aveva un Subway sotto casa. Ah sì, ho letto, sì. Che cacchio? Ma a Roma ce ne sono 6 o 7. Infatti, ma quando siamo andati non me li ricordavo. Vabbè che non abbiamo girato quelle zone, magari, però. Non sarei fatto un panino. Caspita, un one foot long. Consigliamo quindi di andare, se siete di Roma, lo troverete di sicuro un bel Subway, un bel paninazzo. Il Subway di Andreotti, dai. Sì. Andate a visitare anche la Salma, no? La Salma ormai no, però la tomba. Allora, siamo in conclusione. Sì, dai, chiudiamo con un bacione. Ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti. Beh, ricordiamo solo, domani, dopodomani esce il Grande Gatsby e basta, perché non c'è nient'altro. Però io finisce la festa del cinema il 16, quindi approfittatene. Sì, però molti siti, tra cui Coming Soon, Radio DJ e altri, danno l'opportunità di andare con un voucher anche il weekend, che sta per arrivare sempre a 3 euro. Io ho sentito Radio DJ parlano di una settimana in più addirittura. Ah, vabbè. Che loro, però... Guardate sul sito, comunque è tutto sui siti, Radio DJ è una roba da compilare e scaricare, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Tanto con tutta sta roba che c'è da vedere. Appunto, però pagare 3 euro Gatsby è la cosa migliore. E poi se siete clienti Sky da 10 anni, Sky Cinema da 10 anni, nonostante Sky Cinema esista da 9 anni e 10 mesi, il 31 luglio compierà 10 anni, potete andare al cinema tutto l'anno, credo, il giovedì a 3 euro. Certo, dovete essere 10 anni, non so quanti siano, anche se diranno, vabbè dai, 9 anni e 10 mesi sono 10 anni, e faranno entrare tutti, però non so quanti, saranno in 3 o 4 ad avere Sky Cinema fin dal primo giorno. Vabbè, è inquietante che neanche chi lavora a Sky Cinema sappia da quanto esiste Sky Cinema. Sì, è imbarazzante. E come ultimo consiglio, guardate My Movies, quel servizio per vedere i film online, perché ce ne sono parecchi interessanti in questo periodo. Prima di tutto c'è Mea Maxima Culpa, quello sulla pedofilia nella chiesa, che è molto discusso, ma è da vedere. Poi c'è il miglior film, dicono, di Susan Bier, The One and Only. C'è Train the V, e poi c'è tanta tanta roba, c'è Pusher, aspetta, ah sì, quello di Refn, c'è Bronson, sempre di Refn, c'è l'altro Pusher, il 2, sono tutti, vabbè. Però. Insomma, c'è tanta roba interessante, sì, c'è anche il terzo, eccolo qua. Dovrebbe sembrare strano, sono usciti ormai da tanto, quindi. Scadono tutti il 31 di maggio, quindi avete tempo, e sono tutti i film che meritano almeno la visione. Poi sono, credo, gratis questi, però c'è quella discussione, insomma, che voi, tu e Alex Diro, Rip, non riuscivate a vederli, no? Forse a pagamento per voi. Sì, no, a un certo punto cioè, a noi hanno chiuso l'abbonamento e c'è chiuso. O da ora in poi dobbiamo pagare per... E non lo so, a me non avevamo adesso questo problema, forse lo darà adesso, perché adesso c'è proprio un servizio a pagamento in cui vedere la roba più nuova, però questi forse no, sono gratis, vedrò. Allora, essendo roba meno recente fanno sto favore, non è male, visto che fra un po' esce Solo Dio Perdona, fanno una maratona Refn. Sì, A gratis magari, chissà, tenetevi d'occhio. Vai. E magari la prossima settimana ci vediamo per Grande Gatsby, non lo so. Dipende da quanto ci sarà da parlare sull'argomento. Esatto. Vedremo. E io consiglio una cosa anch'io in chiusura. Ormai è uscito da mesi, ma fa niente, lo sto leggendo ora. Io lo chiamo Cinematografo, intervista di Tornatore a Francesco Rosi. Ormai comunque lo trovate su Amazon, è calato un pochino il prezzo, è un bel mattone di 500 pagine, un'intervista su tutta la carriera di Rosi e sulla vita anche, ed è interessantissimo, che poi parla di tutto, teatro, primi periodi da regista, quindi Visconti, insomma vari registi con cui lui ha collaborato, nel dettaglio parla dei suoi grandi film, bellissimo, si divora, un gioiello per gli appassionati, lo consiglio. C'è anche in ebook, credo, e costa molto meno, quindi chi non ha voglia di spendere quei 18 euro se la cava con 10 sul Kindle, consigliato. Ok. E Alex Diro consiglia un libro su Batman, vabbè, quello che consiglia da 3 settimane di fila. E niente, ci vediamo quando ci vediamo, Gatsby permettendo cosa? Arrivederci! Ciao! Buonasera.